giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Forti carenze di organico al pronto soccorso di Udine, non ci sono sanitari interessati alla specialità e allora si ricorre ai medici pagati a gettone, 100 euro l'ora. A mandare in tilt il pronto soccorso di Trieste sono gli accessi impropri e la riduzione dei posti letto nei reparti aggravata dal Covid. La Sugi fa il punto della situazione dopo l'allarme lanciato dai sanitari. Nuova tragedia sulla A4, tampona un tir, esce dall'auto che prende fuoco e viene investito da un altro camion. Ieri è morto così un 34 treni di Bordano. Il ponte sul Torre potrebbe riaprire venerdì, ma solo al traffico leggero. Ci sono problemi strutturali e per quello nuovo bisognerà attendere almeno un anno. La finanziaria regionale sale fino a quasi 5 miliardi di euro. La Giunta approva una nuova previsione di spesa di poco meno di 5 milioni con un occhio di riguardo alla sanità. L'allarme della presidente degli albergatori Schneider: se non caleranno le bollette, l'attività degli alberghi potrebbe interrompersi dopo l'Epifania. Si chiude oggi in fiera a Pordenone la due giorni dedicata all'orientamento universitario. Confindustria fa incontrare gli studenti con le aziende. Al via Tracce di Confine, progetto tra Tarvisio, Malborghetto e Pontebba che mira a valorizzare l'identità della Val Canale legata alle vicende del triplice confine italo-austro-sloveno. Cosa unisce Robert Schumann a Freddie Mercury? Se ne parla nel primo appuntamento degli aperitivi in musica, lezioni concerto della Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste. Sono le 7.19 di giovedì 10 novembre, buongiorno da Livia Liberatore e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 16 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 19 gradi. A Gorizia 13 gradi, a Udine 12,5, a Pordenone 12, a Tolmezzo 10,5, Forni di Sopra, Piancavallo e Tarvisio 7,5, Sappada 4,5. Sul Monte Lussario e Monte Zoncolan 4,5, tornando sulla costa Grado e Lignano 15 gradi, con temperatura del mare di 19 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi: cielo da nuvoloso a coperto con piogge diffuse, moderate a ovest, abbondanti a est, localmente intense con la possibilità di temporali. In tarda mattinata soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, e sarà possibile qualche nevicata oltre 1700-1900 metri, specie sulle Alpi Giulie. Dal pomeriggio generale miglioramento con schiarite a partire dalla Carnia. Ora le notizie. Una task force di ingegneri gestionali è in campo per riorganizzare l'intero sistema sanitario. Di fronte alle difficoltà della carenza di personale cronica e della gestione di ospedale e territorio, l'azienda sanitaria di Udine lavora per migliorare i servizi, ma diventa necessario l'aiuto dei privati e sono stati attivati dei medici a gettone. Entro l'anno verranno riaperti i punti di primo intervento PPI di Cividale e Gemona. A garantire il servizio non sarà il pubblico ma una convenzione con un ente del terzo settore, per esempio la Croce Rossa o la Croce Verde. Non appaltiamo ai privati ma cogestiamo con chi si occupa di emergenza, precisa David Turello, direttore sanitario di Udine, che di fronte alla carenza di personale ormai conclamata in tutto il territorio sta lavorando a riorganizzare l'intero sistema sanitario territoriale. Abbiamo acquisito da qualche tempo degli ingegneri gestionali che ci aiutano, che ci supportano nell'inizio, diciamo, di questo percorso di revisione, un percorso che ovviamente porterà del tempo, ma l'atto aziendale nuovo ci dà un'opportunità, che è quella di mettere in contatto territori e ospedali di tutta l'ex provincia di Udine. Il pronto soccorso di Udine, come tutti i reparti d'emergenza, è in sofferenza, carenza di medici, reparti saturi e sanità territoriale sguarnita. Mario Calci, direttore. Il pronto soccorso da sempre è un punto, un po' un faro che permette di rispondere alle esigenze di cui il paziente non ha trovato risposta, e questo lo continuiamo a fare. Chiaramente più il territorio è efficiente, più l'ospedale è efficiente, più il pronto soccorso riesce a lavorare in maniera coordinata. I picchi d'accesso al pronto soccorso si registrano lunedì dopo l'assenza dei medici di base del weekend, i punti di primo intervento mai riaperti dopo la pandemia. Anna Grizzi, presidente Associazione Diritti del Malato. Le segnalazioni che riceviamo sono da Cividale, Gemona, zone delle valli del Natisone, dalla zona montagnosa friulana, dovuto al fatto che sono stati smantellati i servizi territoriali, in particolare i punti di primo intervento. Intanto, mentre l'azienda consente a pagare 100 euro l'ora di straordinari dei medici dipendenti per evitare il ricorso al gettone, per i sindacati non basterà. Stefano Bressan, UIL FPL. In questo momento le condizioni di lavoro sono troppo critiche e il personale rifiuta anche i turni straordinari e comunque le condizioni che vengono offerte dal privato in questo momento sono migliori. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Non ci saranno provvedimenti disciplinari contro il personale che ha scelto di denunciare la situazione di malessere e non viene a mancare la fiducia nel direttore del pronto soccorso, Franco Cominotto. A Trieste il chiarimento è arrivato nella conferenza stampa del direttore generale Antonio Poggiana di Asugi dopo la denuncia di sovraffollamento, carenza di personale, reparti saturi fatta dai sanitari ai nostri microfoni. E Poggiana, dati alla mano, spiega l'origine delle difficoltà. Ringrazio il personale dei nostri pronto soccorso per il lavoro che stanno svolgendo e che hanno svolto durante il Covid, un lavoro duro, pesante, complicato, poco attrattivo ma prezioso. Si apre con il riconoscimento a medici, infermieri e OSS da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria Asugi, Antonio Poggiana, la conferenza stampa voluta per rispondere al malessere denunciato dai sanitari del pronto soccorso di Trieste, esausti per la pressione subita dopo 3 anni di pandemia, la carenza di personale. Detto questo, Poggiana entra nel merito delle denunce. L'affollamento è causato dalla riduzione dei posti letto nei reparti, purtroppo iniziata già nel 2015, aggravata con il Covid. Tuttora una 60ina di posti, dice Poggiana, resta Covid. Stiamo assumendo l'assumibile. Si stima che nei pronto soccorso italiani manchino 5.000 medici, 12.000 infermieri. Rispetto agli accessi non sono aumentati, dice Poggiana, sono stabili ormai da anni, ma il personale, osserviamo noi, ha lamentato non la quantità ma gli arrivi impropri, spesso di persone anziane o senza tetto, che non vengono gestite dal territorio. Se l'accesso al pronto soccorso è libero, no? Quindi non è che possiamo far entrare qualcuno e non far entrare altri. È un problema strutturale che deve essere affrontato mettendo in campo tutti i servizi territoriali. Ci state lavorando? Ci stiamo lavorando da qualche mese. L'ipotesi di appaltare il pronto soccorso del maggiore ai privati viene al momento esclusa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ancora un incidente mortale sulla A4, a perdere la vita ieri pomeriggio Manuel Zanier, 34enne di Bordano, investito da un camion. La tragedia lungo la carreggiata in direzione Trieste, nel tratto a 3 corsie dell'autostrada, all'altezza di Rivignano Teor, fra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. Complessa la dinamica dell'incidente, ancora al vaglio della polizia stradale. Zanier era alla guida della sua vettura, su cui viaggiava con un passeggero, quando ha sorpassato un mezzo pesante con targa cieca, ma al momento di rientrare nella corsia di marcia si sarebbe infilato dietro un altro mezzo pesante. Per ragioni ancora non note, l'auto ha tamponato questo secondo mezzo pesante, restando agganciata alla sua parte posteriore, tanto che il tir l'ha trascinata per diverse centinaia di metri senza che l'autista se ne rendesse conto. È stato l'autista del tir sorpassato ad avvertire via radio il collega. Sull'auto intanto si stava sviluppando un incendio. A quel punto l'autista del mezzo pesante si è fermato e dall'auto, impauriti per quanto era accaduto e per le fiamme che si stavano sviluppando, sono subito scesi 2 occupanti. Zanier, che era la guida della vettura, si è ritrovato al centro della carreggiata, dove è stato investito dal tir che sopraggiungeva. Una delle ambulanze del 118, giunte immediatamente sul posto, ha accompagnato all'ospedale di Udine il passeggero dell'auto in stato di shock. Lunghe code si sono formate sulla carreggiata in direzione Trieste. Resta ancora chiuso per il pericolo di una piena il ponte sul fiume Torre alle porte di Chiopris Viscone, forse riaprirà domani ma solo al traffico leggero, e la realizzazione del nuovo ponte è in ritardo di 4 anni. 2 ponti sul Torre, tra Palmanova e Chiopris Viscone, nessuno dei due agibile. Dopo un sopralluogo tecnico su quello vecchio, l'ente di decentramento regionale ha scelto di ritardarne l'apertura, passata una possibile piena del fiume nelle prossime ore. Accelerati i lavori di consolidamento e installati nuovi sensori, venerdì potrebbe riaprire il traffico, ma solo ai mezzi leggeri, niente camion, tir né corriere. 2 anni fa il crollo della vicina Briglia, una sorta di muro di contenimento, e così non si riesce più a mantenere la ghiaia sul greto del torrente, che scivola verso valle. Meno ghiaia vuol dire più problemi di erosione. Fra 10 giorni la regione aprirà la gara per ripristinare la Briglia crollata 2 anni fa. Da gennaio partiranno i lavori, che valgono 3 milioni di euro. Raffaella Perusin, sindaco di Chiopris Viscone. Chi si deve recare anche banalmente in ospedale deve fare un giro più largo, per cui pensiamo alle persone che normalmente vanno verso Palmanova. I disagi sono molti, perché uno che lavora di qua deve partire mezz'ora, tre quarti d'ora prima. È scomodo adesso che è tutto chiuso, no? Non so cosa aspettano di andare avanti con i lavori. Per il ponte nuovo, che corre parallelo e quindi per la demolizione del vecchio, bisognerà attendere la fine del 2023, 4 anni dopo la scadenza prevista. Andavano sostituite oltre 300 aste tubolari su 1000. Nel 2018 la rottura di una di queste aveva portato alla luce una fornitura di materiale non conforme da parte di una ditta vicentina, partner di ICOP, poi fallita. Andavano verificate tutte, una a una, ne sono state sostituite già i 2/3. Sulla vicenda indaga la magistratura udinese. Piero Petrucco, amministratore delegato di ICOP. L'appalto rimane esattamente dell'importo che era contrattualmente previsto, il problema di questo danno sarà in parte risarcito dall'assicurazione e in parte sarà connesso al contenzioso che saremmo costretti a fare nei confronti della curatela dell'impresa che aveva fornito questo materiale non conforme. Chiopris Viscone, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci sono quasi 200 milioni in più per la manovra finanziaria regionale di fine legislatura, che ora sfiora i 5 miliardi di euro. La Giunta Fedriga ha approvato la destinazione dei nuovi fondi. Ai 4 miliardi 760 milioni di euro previsti 5 giorni fa dalla Giunta Fedriga per la finanziaria 2023 si aggiungono ulteriori 197 milioni di euro. Si tratta di risorse che provengono da 3 fonti principali, spiega l'assessora Zilli, dalla rinegoziazione dei patti finanziari con Roma, che sono più favorevoli per la Regione, dal gettito delle compartecipazioni e anche dalla scelta della Giunta di adottare un metodo di flessibilità per la programmazione finanziaria. I 197 milioni aggiuntivi verranno quindi distribuiti tra tutte le direzioni regionali. L'incremento più sostanzioso, 70 milioni di euro, va alla salute e politiche sociali, che disporrà complessivamente di 2 miliardi 895 milioni. 40 milioni si aggiungono ai già disposti 404 per le infrastrutture. Le direzioni dell'ambiente e del turismo potranno contare entrambe su ulteriori 20 milioni. Le risorse per l'agricoltura aumentano di 15, ulteriori 12 milioni sono destinati alle autonomie locali e immigrazione e le poste per le direzioni del lavoro e della cultura si consolidano entrambe con aggiuntivi 10 milioni. Il documento della finanziaria 2023, che passa così da 4 miliardi e 760 milioni a 4 miliardi 957, verrà depositato la prossima settimana in Consiglio regionale. A fine mese inizierà nelle commissioni e a metà dicembre sarà discusso in aula. L'obiettivo, specifica Zilli, è sostenere lo sviluppo della nostra comunità e contribuire a scongiurare il rischio di recessione. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un lungo incontro tra una delegazione di rappresentanti delle sezioni del carcere di Udine, la direttrice Tiziana Paolini, il garante Corleone e il magistrato di sorveglianza Mariangela Cunial si è tenuto dopo le proteste pacifiche dei detenuti avviate all'indomani del suicidio di un 22enne originario della Repubblica Dominicana che si è tolto la vita nel carcere di Udine, dove era in attesa di giudizio per tentativo di omicidio, un reato maturato nel corso di una rissa a Trieste. A darne notizia all'SPT, il sindacato di polizia penitenziaria, si tratta del 74esimo episodio di suicidio in carcere di quest'anno in Italia. Sabato scorso, dopo un alterco con il compagno di cella e con un agente di polizia penitenziaria che il giovane aveva minacciato con una bomboletta di gas, il 22enne era stato messo in isolamento ed era stato posto sotto sorveglianza. Il giorno dopo è stato trovato impiccato con le lenzuola legate alle sbarre della finestra. Il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del comune di Udine, Franco Corleone, ha sottolineato che nel carcere di Udine sono detenute 141 persone su 86 posti disponibili e a tutt'oggi non ci sono educatori. 2 assegnati prenderanno servizio solo a gennaio, con problemi per i magistrati di sorveglianza che trovano difficile proporre misure alternative. Se è così, ha concluso Corleone, il carcere esplode. Ora l'economia e il caro energia mette in difficoltà gli albergatori che navigano nell'incertezza. Secondo la presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider, l'accoglienza turistica al momento è garantita solo fino ai primi giorni di gennaio. Ottimismo a termine, così possiamo definire il sentiment degli operatori turistici della montagna regionale, felicemente alle prese con la voglia di muoversi e fare vacanza che ha contraddistinto gli ultimi mesi, estate compresa. Il primo report sulle prenotazioni, anche se informale, dice Paola Schneider, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, ha già raggiunto quota 60%, con gli alti e bassi legati al calendario. La prima fiammata, condizionata ovviamente dalla presenza o meno della neve e delle piste di sci aperte, si avrà per il lungo ponte dell'Immacolata. Si vivacchierà bene poi fino a Natale, eccetto i giorni immediatamente prima e dopo il 25, quando si tratta di festività ancora da vivere in famiglia. Poi la valanga turistica che potrebbe arrivare tra il 28 e il 29 e durare fino al 4 gennaio. Non è detto che sia l'ultimo giorno, in quanto a seguire c'è un ipotetico ponte che porta fino all'8 gennaio. Conforta poi anche la tenuta turistica dei paesi dell'est, sul quale c'era più di qualche perplessità. Da Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia arrivano già prenotazioni. Dietro la porta del 4 gennaio c'è però un grande punto interrogativo legato ai costi energetici. Se le bollette di luce e gas si abbasseranno, come qualcuno promette, dice Schneider, ci sono margini di operatività, altrimenti ci potranno essere chiusure anticipate o intermittenti con gli esercizi aperti solo nel weekend o chiusure alternate concordate tra gli operatori a livello locale. Sarebbe un vero peccato, conclude la presidente Schneider, perché la voglia di turismo c'è, così come quella di vacanza, magari più brevi, ma ripetuto lungo diversi periodi dell'anno. Udine Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. L'avvertenza Varsil arriva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'ex Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha convocato per il prossimo giovedì 17 novembre un incontro tra organizzazioni sindacali, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero del Lavoro e Azienda. Proprio ieri le segreterie nazionali dei sindacati dei metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL avevano sollecitato una convocazione da parte del neo ministro Urso per poter riprendere il percorso di tutela della produzione di motori marini nello stabilimento triestino di Bagnoli della Rosandra. Una notizia aggiunta in questi minuti: l'utile netto di Generali nei primi 9 mesi dell'anno è pressoché stabile a 2 miliardi 233 milioni, con un calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Senza gli impatti degli investimenti russi, l'utile netto risulterebbe aumentato a 2 miliardi 374 milioni, con un più 5,5%. Il risultato operativo è invece in ulteriore crescita a 4,8 miliardi, più 7,8%, grazie allo sviluppo positivo dei segmenti vita e danni. I premi lordi sono in lieve aumento a 59,8 miliardi, più 1,3%, grazie allo sviluppo del danni, più 10,3%, in particolare nel non auto, mentre i premi sono in calo nel vita, meno 2,9%. Lo si legge in una nota di Generali diffusa all'indomani del Consiglio d'amministrazione che ha approvato i conti. Sono in aumento le immatricolazioni all'Università di Trieste, in particolare per le lauree specialistiche, e in aumento anche il numero di nuovi dottori di ricerca, grazie ai fondi del PNRR. Università di Trieste in controtendenza rispetto al calo delle immatricolazioni a livello nazionale, attribuito alla crisi economica e alla pandemia. Un andamento positivo che non è stato fermato dall'emergenza sanitaria. Il rettore Roberto Di Lenarda. Noi abbiamo, rispetto allo scorso anno, una percentuale di aumento fra il 7 e l'8%, percentuale che arriva al 17-18% rispetto all'anno prepandemico. Crescono tutti gli ambiti, sia l'ambito umanistico che l'ambito scientifico che l'ambito biomedico. Questo credo per una offerta, come dicevo, di qualità didattica, di servizi offerti e un'attenzione anche ai ragazzi che hanno meno disponibilità economica. Noi abbiamo un livello di esenzione dalle tasse fra i più alti d'Italia. Ancora aperte, ma in crescita, anche le immatricolazioni per le lauree specialistiche, più 9% rispetto al 2021 e più 16% rispetto al 2019. Contemporaneamente cala il numero degli studenti fuori corso. Si sono ridotti di più del 40%. Esiste il tema dell'abbandono universitario. Nel nostro Ateneo è un po' sotto il livello medio italiano, comunque è un tema che ha tutta la nostra attenzione, stiamo mettendo in campo forti azioni di orientamento e di supporto proprio per evitare che questo succeda. Intanto nuove opportunità arrivano dai fondi del PNRR destinati a borse di dottorato. 5 quelle a bando che vanno ad aggiungersi al numero crescente di borse assegnate in questi anni. Quest'anno per la prima volta avremo più di 200 nuovi dottori di ricerca. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E c'è chi si appresta a scegliere la facoltà universitaria, la Fiera di Pordenone. Anche oggi ci sarà l'incontro organizzato per l'orientamento dei giovani studenti e ci sono anche le aziende che cercano profili precisi. Da una parte studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, neodiplomati, laureati, persone alla ricerca di un primo lavoro, di reinserimento o di specializzazione. Dall'altra il mondo delle imprese e della formazione. L'incontro a Pordenone in fiera, dove ci sono a disposizione un'ottantina di offerte di lavoro con un colloquio, per quasi tutti il primo, da svolgere subito. Grazie alla mia scuola ho avuto molteplici offerte di lavoro e adesso devo solamente prendere in pugno la situazione e decidere dove andare. Qual è l'ambito? Elettrotecnico. Renato Pugliatti, presidente Fiera Pordenone. Il comitato che abbiamo messo in piedi per poter dare una proposta giovane, una proposta che aderisce il più possibile alle loro richieste, alle loro volontà, a ciò che loro desiderano, ha lavorato per un intero anno per dare delle novità, ma per dare una risposta a tutto quello che cercano. La domanda è rappresentata da studenti di oltre 50 scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, ma anche da Venezia, Treviso e Belluno, 80 gli espositori di un'offerta diversificata tra atenei, istituti tecnici superiori, forze dell'ordine, aziende e realtà che possono disegnare il futuro di questi giovani. Giovanni Bozzo, ANCE Alto Adriatico. L'edilizia è sempre esistita e continuerà sempre a esistere. Posti di lavoro ce ne sono tante, opportunità ce ne sono tante, devo dire che i giovani fanno un po' fatica, dobbiamo cercare di far capire che è anche una professione in via di sviluppo e di evoluzione, perché stanno arrivando anche tecnologie e innovazione. Edward Casaseanu, consulta degli studenti della provincia di Pordenone. Dal mio punto di vista manca in certi casi anche il lavoro, però anche il giovane d'oggi, secondo me, in determinati casi, magari perché è mal informato e mancano degli eventi dove, come magari questo, viene spiegato il lavoro, non ha la disponibilità di farlo. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio in Serie A con i posticipi di questa sera Verona-Juventus e Lazio-Monza, si completa il quadro della 14ª giornata dopo i risultati di ieri. L'Udinese, che nell'anticipo aveva pareggiato per 1-1 alla Spezia, si trova all'ottavo posto in classifica con 24 punti. Questa mattina i bianconeri torneranno ad allenarsi agli ordini di Mister Sottil in vista della delicata trasferta in programma sabato pomeriggio alle 15 sul campo della capolista Napoli. Alle 7:40 e 50 secondi cominciamo la rassegna stampa. Pronto soccorso, arrivano in aiuto i medici a gettone, il titolo di apertura del Messaggero del Friuli. Prenderanno servizio alla tisana e a Palmanova, potranno percepire fino a 800 euro a turno. Nella fotonotizia il terremoto nelle Marche di ieri mattina, sentito anche in Friuli Venezia Giulia, e in un'altra foto fugge dall'auto in fiamme, travolto e ucciso sulla A4. Dalla cronaca locale, Osteria Udine nel mirino dei ladri, è il secondo furto in 3 giorni, e poi vandali a Tricesimo nella ex sala del bowling, danni per 150.000 euro. Sul fondo un approfondimento, brevetto friulano sulle microonde per salvare le viti. Sul Gazzettino del Friuli l'apertura è sull'incidente di ieri, travolto e ucciso da un tir in A4. Al centro della pagina, mezzi pubblici, in un anno persa la metà degli utenti. Nella cronaca Caligaris, Confindustria del Nord-Est, non adesso. Nella fotonotizia Ponte di Chiopris, domani si riapre. Il Piccolo di Trieste in prima pagina riporta la risposta della Sugi sul tema del pronto soccorso cittadino, pronto soccorso in crisi per colpa di scelte passate, è il virgolettato del titolo di apertura, frase del direttore di Asugi Poggiana, che aggiunge: la nuova centrale operativa darà risposte. Intanto si annunciano nuove assemblee sindacali e una manifestazione di protesta indetta per giovedì prossimo dai sindacati. In una foto di una messa in scena teatrale, il Piccolo si concentra in prima pagina anche sulla scommessa dell'Art Bonus, ossia le erogazioni liberali a favore di progetti culturali. L'Art Bonus prende quota, si legge nelle pagine interne del Piccolo di Trieste, oltre 3 milioni di euro donati da 332 mecenati. In netto aumento gli sponsor privati che investono. A loro la Regione ha scelto di erogare contributi sotto forma di credito d'imposta pari al 40% di quanto versato. Nelle cronache di Trieste, oltre alla questione pronto soccorso, anche il nuovo volto di Piazza Sant'Antonio. Interviene il sindaco di Piazza che annuncia: faremo tutto nuovo ma senza alcuno stravolgimento rispetto all'aspetto attuale. Sul Gazzettino di Pordenone l'apertura è sui mezzi pubblici, li snobano tutti, è il titolo in prima pagina. Orari impossibili e corse a rilento, per passare da un capolinea all'altro in alcune fasce orarie sono necessari fino a 40 minuti. Nella cronaca centinaia di giovani in fiera a Pordenone per un lavoro. Anche il Messaggero Veneto di Pordenone dedica l'apertura alla situazione dei mezzi pubblici. Ridotti i tragitti, in bus si arriva prima in centro. È pronto il piano per snellire la mobilità urbana. I percorsi non dureranno più di 15 minuti. Altri due giorni di stop produttivo alla Electrolux è un'altra notizia della prima pagina, e sul fondo troviamo una storia: Jacopo di corsa insieme alla sua mamma per vincere la sfida contro la distrofia muscolare di Duchenne. E la recensione di un libro di Gianni Zanolin, Il rapporto padre-figlio, per raccontare 150 anni di una famiglia ebraica. L'edizione esontina del Piccolo dedica l'apertura della prima pagina alla grande distribuzione. I supermercati dilagano a Gorizia, si legge, rimaste solo due botteghe. Oggi il taglio del nastro di una nuova grande struttura nell'ex manifattura. Nei 1500 metri quadrati lavoreranno 34 dipendenti. Nelle pagine dedicate a Gorizia dal Piccolo anche la cronaca giudiziaria, le società estere, il fisco eluso, archiviazione per i tre indagati coinvolti nell'inchiesta che si chiude, l'ex presidente e il socio della pallacanestro Gorizia Raida e Aldo De Luca. Per il PM e poi il giudice delle indagini preliminari, i reati tributari ipotizzati non erano provati. Ad aprire le cronache di Monfalcone la questione legata al controllo della gestione di Isa Ambiente, l'azienda che si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti. Monfalcone si sfila dall'accordo sulla gestione. È l'unico comune a non aver avallato la proposta di Gorizia per rispondere alle richieste di chiaramento dell'ANAC, l'autorità anticorruzione. Alle 7.45 vediamo alcuni appuntamenti al Via Tracce di Confine, progetto tra Tarvisio, Malborghetto e Pontebba che mira a valorizzare la peculiare identità della Valcanale legata alla storia e alle vicende del triplice confine italo-austro-sloveno. Numerose le iniziative in programma, a cominciare questa mattina dalle 9.30 al Cinema Teatro Italia di Pontebba con la presentazione del volume dal titolo Valcanale, Canal del Ferro, da nemiche a esempio di integrazione, a cura dello storico Davide Tonazzi, che ha visto coinvolti allievi e docenti del plesso scolastico di Tarvisio. Ne abbiamo parlato con Tonazzi. Il progetto era appunto di portare i ragazzi delle scuole sui luoghi della Grande Guerra e nei musei della Grande Guerra che ci sono qua nel territorio, e questi luoghi sono un po' al di qua e al di là del vecchio confine di Pontebba. Quindi la Valfella, che è una valle unica, è divisa in Valcanale, che è da Pontebba verso nord, e Canal del Ferro verso sud. All'epoca erano Italia e Austria, adesso sono la stessa nazione, ma con questa divisione del confine di Pontebba che non c'è più, che c'era fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si dimostra come alla fine della guerra, con lo spostamento del confine più a nord, le due valli si sono unite in una valle sola. E questo, spiegandolo ai ragazzi delle scuole, si spiega anche come mai nella stessa classe tu puoi avere un cognome tedesco, quindi uno di origine valcanalese e uno col cognome italiano che è origine del Canal del Ferro. Nella seconda parte del suo libro c'è anche una parte dedicata proprio agli elaborati dei ragazzi. Che cosa dicono? I ragazzi hanno fatto a seconda dell'età, qualcuno ha fatto un disegno, qualcuno ha fatto una finta lettera come se scrivessero a un soldato al fronte, alcuni hanno fatto solo delle foto dei posti dove siamo stati. Ognuno è stato libero di interpretare quello che ha visto e quello che ha ascoltato a modo suo. Secondo lei che cosa unisce adesso queste due aree? Sicuramente la pista ciclabile è una bellissima iniziativa che unisce, si chiama Alpe Adria, quindi dalle Alpi fino all'Adriatico. E poi perché segue il vecchio tracciato della vecchia ferrovia che una volta aveva il confine sempre a Pontebba. Ed ora parliamo di prosa al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, prima dello spettacolo Trappola per topi di Agatha Christie con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gaglione, in scena fino a domenica all'inizio alle 20:30. Alle 18 alla Sala Bartoli si terrà la prolusione a cura del professor Peter Brown, direttore della British School del Friuli Venezia Giulia. Al Teatro La Contrada di Trieste, in scena The Children della drammaturga britannica Lassie Kirkwood. Una coppia in crisi, un ospite in attesa e lo spettro di un disastro nucleare nella trama dello spettacolo che comincerà alle 20:30. Al Teatro Miela di Trieste stasera I figli della frettolosa di Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi, uno spettacolo che affronta il tema della cecità e di cosa significhi la parola vedere. Inizio alle 20:30. Entra nel vivo la programmazione del circuito ERT, il mercante di Venezia di William Shakespeare, nell'allestimento di Paolo Valerio per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con Franco Branciaroli nei panni del protagonista Shylock, sarà a Casa Arza alle 20:45. La musica si intitola Da Robert Schumann a Freddie Mercury, il primo appuntamento degli aperitivi in musica, lezioni concerto con la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, che si terrà oggi pomeriggio alle 17 e in replica alle 18:30. Una lezione dedicata all'evoluzione dei generi musicali, a partire dai leader tedeschi fino al pop contemporaneo, inaspettatamente più vicini di quanto si creda. Ne abbiamo parlato con il professore pianista Giovanni Baldini. La scelta nasce da un'esigenza non nostra ma del pubblico. In tanti anni di spettacoli, di concerti, le persone venivano a chiederci un aiuto, una specie di formazione per arrivare pronti ai concerti, siano concerti di opera lirica, concerti sinfonici, concerti per musica da camera, qualsiasi genere. Allora noi abbiamo pensato di proporre questo format nel quale in realtà lo spettatore, il partecipante, può arrivare senza alcuna formazione musicale a comprendere e apprezzare svariati generi differenti. Perché da Robert Schumann a Freddie Mercury? Perché si parla di musica classica dell'Ottocento tedesco per Schumann, quindi litteristica, e si arriverà al pop del secolo scorso con Freddie Mercury e i Queen. Ma in realtà la lezione spazierà fino a musica del fine 1500 inglese. Questo perché c'è un principio molto noto anche nelle neuroscienze musicali che spiega un fattore molto importante, ovvero tutti noi siamo abili alla fruizione e al godimento della musica. E per gli appuntamenti successivi che cosa prevedete? Abbiamo anche qui diverse tipologie. Ci sono gli aperitivi dedicati al rock, aperitivi dedicati ai rapporti fra l'arte e la musica, oppure, ad esempio, uno dei titoli è come si ascolta una sonata, come si ascolta una sinfonia, oppure grandi direttori d'orchestra a confronto. Per la rassegna Udine and Jazz Winter, musica e parole per il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, stasera alle 20 al Teatro San Giorgio di Udine, le note dei danesi Jacob Bro Trio. Tre concerti in successione chiudono oggi, venerdì e sabato, a San Vito al Tagliamento il progetto sulla musica nell'universo letterario e cinematografico di Pasolini. Alle 21 le percussioni di Dario Savron con l'Accademia d'Archi a Rigoni. Appuntamento speciale della rassegna Il volo del jazz a Palazzo Ragazzoni di Sacile alle 20:30 con ingresso gratuito, la musica del progetto Sun Fun Punk del trio Sacco Mosolo Amendola. I libri, Enrico Galliano presenta il suo volume Scuola di felicità per eterni ripetenti in dialogo con il libraio Remo Andrea Politeo alla Libreria Moderna Udinese alle 18:30. Lo scrittore e professore pordenonese Andrea Maggi presenta il suo libro Storia di amore e rabbia per la rassegna Romance d'autore alle 18 nel Centro Culturale di Casa Candussi Pasiani. A Trieste per la rassegna Rotte a cura di ICS verranno presentati due libri, L'unica persona nera nella stanza di Nadisha Uyangoda e Seconde generazioni, identità e partecipazione politica di Giuseppina Tumminelli, alle 18 all'Antico Caffè San Marco. Presentazione del libro biografia Non lasciatemi solo, il vescovo che voleva fare il parroco, su Monsignor Pietro Coccolin, scritto dal giornalista Pierpaolo Gratton. L'incontro dibattito si svolgerà alle 18:30 nella sala oratorio San Michele di Monfalcone. Il liceo Marinelli di Udine organizza la serata Marinelli 100 per ricordare i suoi 100 anni di vita. Sul palco autorità, testimonial del liceo, studenti e gruppi musicali dalle 18 al Teatro Giovanni da Udine. Saranno le Alpi il tema centrale della conferenza Porte aperte tra le montagne che si terrà a Udine per il progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia realizzato dalla Società Alpina Friulana. Relatore l'antropologo Annibale Salsa, appuntamento alle 18.30 alla Camera di Commercio di Udine. Continuano i giovedì minervali organizzati dalla Società di Minerva alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste. L'incontro di oggi, introdotto da Elvio Guagnini, sarà dedicato a Franca e Manlio Malabotta, due vite tra arte e poesia, alle 16.45. Secondo appuntamento di Prata d'Autore, rassegna organizzata da Orto Teatro con la Biblioteca Civica di Prata di Pordenone, al Teatro Pileo di Prata la scrittrice italo-irlandese Anna Dalton presenta il suo ultimo romanzo, Le tre figlie, alle 20.30. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vue o Fevelindì che parlerà della 18ª edizione della Fiera del Lavoro 2022 che si svolgerà domani mattina online e in presenza sabato al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Alle 11.20 l'appuntamento con Anziani, anzi no, alle 11.55 andrà in onda invece Né Stato né Mercato. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. Questa edizione del giornale radio regionale è andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Viola Romanese, Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Laura Sarasini. L'informazione su questa rete torna alle 11 con il flash, alle 12.30 con una nuova edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da Livia Liberatore e Andrea Covre che hanno curato e condotto questo GR, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.